Erika. Ah, buongiorno, sono Erika, io ho più di 60 anni e da 40 russo tranquillamente, soprattutto se sono molto stanca. Mio marito è un russatore, ma mentre io mi sono adattata al suo russare, lui no, si deve mettere i tappi per non sentirsi. Che gesto di scarsa cavalleria e di poca attenzione. E lui non ce la fa a sentire se stesso, Guardi, è un momento scioccante. Io, se guardo il mio video, che adesso ormai è diffuso nel mondo, ha già avuto non so quante decine di migliaia di contatti, di me che russo sul divano, mi rendo conto che un'altra persona, c'è anche una trasfigurazione del volto. È come se improvvisamente qualcosa mi avesse preso. Ma in quel momento ero felice, io stavo dormendo come un papa, ero tornato a una giornata stanchissima, ho sollevato le donne, c'avevo la schiena rotta. Il fatto che io russassi significa che mi abbandonavo a questa sorta di flusso che mi portava da un'altra parte. Lei nel corso della sua vita ha avuto problemi legati al suo essere donna e russare. Molte l'hanno... No, l'ho sempre detto prima. Guardate, io russo.